Serpentino. Serpentino, sì. Sì, era la Gianni che stava da provarlo, Non è stato andato. Sto andando a trovare la tua amica, lo sto trovando. Non lo trovo. Ho capito. Sì, vabbè, dai, io vado a mangiare, ci sentiamo. Ciao, sono a te. Vado a lavarmi e vado a mangiare, dai, ciao. A cena, ci siamo le barbone. Poi già si vedrà. Ma comunque, Adesso vedo, una preforma me la voglio prendere, dai. Come si chiama? C'è una sigla strana. Ha dei numeri davanti e basta. E non ha un nome. Ha una sigla strana. Dopo glielo dico a vedere. C'è questa cosa. Metto, compare, che stasera comincia, metto perché non citi. Oggi mi abita da solo. E come che mi trovo? Ma lui trovata là. No, non l'ha cercata, lui di fare una cosa, di cercare a terra dal balcone del bottone di ricerca e poi l'ha guardata. Calma, calma, vabbè, dopo glielo... glielo dico là. Una gana, perché non è che sia molto bello. E già lo so, già. Ma calma, oia. Un casino già. Dell'avvi. Ma lo sai però la miseria allora a me, no, perché per qua prestanza lì mi va bene, ma anche un po' fuori, cioè non ho problemi, mi serve il cavo per sentire almeno il ghero un po'. Yeah. Io da qualcuno arrivo, quindi avendo due DD a me mi fanno molto comodo, hai capito? Va. Magava, non mi dici c'è un mente, no? No. Ah, iaia, e beh le cuffie, c'è l'iaia. C'ho le cuffie, ma attaccolo. L'attacco che c'è con prima ci gioca, è un casino. E non me le posso mettere. Cava, e beh, no. Ma cosa c'è, un attacco grosso? No, mi serve un attacco mono. Un attacco molo piccolo con l'attacco stereo piccolo e femmina, attacco stereo femmina e attacco molo maschio, sempre piccoli. HKG, sì. Ti ho capito perfettamente cosa vuoi dire, bastava domandare a Miro. Aspetta, per quale mattina basta dirlo a Antonio, ma tu sei già uscito e poi ho pensato oggi col principale, non è che si può prima a pigliare la roba a me. Ma le aziende che non funziona così. No. Io sono libero, provo a prendermi le sigarette, tanto per dire. Vado lì in via Tempio e poi, cioè, e poi vado via 4 novembre con pareggio. E vabbè, ho detto a Gavrino adesso al cognetto di Massimiliano, se me l'ho portato a abitare due passi da casa. Capagata, c'è un problema. Già, lo prende anche lui, dai. Ha voglia. Magari niente di trovi, vi la puruetto. No, non ne hanno. Perché da tanto che non usano i crispiuti, perché sono difettosi anche. Ne sono più larghi, ci sono quelli che ci giocano dentro. Li compri lui che ci giocano dentro. Capagata. No, dai, no, mi vanno bene. La verità, sono stato fortunato io, cos'hai so. No, per qua ho detto che ce n'era uno che ha messo la spazza che proprio c'entrava e ci usciva così senza toccare nulla. Capo, no, quello che ho comprato io va bene. Mi piacerebbe tagliare il filo o mettere direttamente uno spirito che vada bene per lì e buonanotte. Oh no. Ma che te ne allora che c'ho io so. E uno che va a rifare a Sisi. Sisi aveva. Ah no, lo so, bro. Ma lo sto solo guardando. Guarda. Pagaffa. Sì, mi sono un poco simpatici. Sì. Anche se sono tranquillo e corro, però boh, mi sono un poco simpatici. Cambio. Se vuoi che fondire, vaggia. Un bene, sai. Sì. Per esempio che non ci siano lampi, se no sono tutto. Ma è un bel manda un bel incontro tutto. Già lo so già. Se non hai visto che accadere ha fatto i nostri qui da me. Calda di olio col farancio. Visto. Ma sa che c'è il pantalone, la volontà di tutti lui si è avviato. Pensa da succedere. Io. Ma perché non mi sospettiscono da? Non lo già, non lo c'è in più, mi si è abbassato sempre un po' pochino lo smitter. Perfetto. Ogni volta che piove si abbassa sempre un po' lo smitter. Che senso si abbassa? Di qualche punto scende un po'. Cioè meno stazionato. Cosa ne so io? Allora, il mio apparecchio, questo qua, lascio uno, si nota un po' di meno, ma in questo qua, quando piove, si abbassa lo smitter un po' di più, quando è normale, rimane giusto. E io qua? Io c'ho stazionaria adesso. Stazionaria? Ma cosa stazionaria? Sto sbagliando io, sto guardando in fatto. Sbagliando per sbagliare. Un po' di più ci saranno salite, o no? Se ho messo il salto? No, no, niente. Niente? No. Se avessimo solventato, io mi chiesi a cosa attende. E ho detto, no, che a 5 minuti, o a 3 sarebbe lo start. Se la vostra azionaria. E c'è? E c'è? Il lago del Coso, il lago del Vacca. Beh, logico, deve segnare. Ora, ora, uno del tre, uno del tre, uno del tre. Ora, ora, ora, ora. La mazza. La scala davanti la perché se no sta unica. Sì, davvero, ciao Lu. Ciao Lu. Ma qui dove sto sintonizzando il digitale terrestre, ci sentiamo dopo. Preso te l'hai, bella! Bella! A seconda mano! Avanti tantissimo, Lulu! Preso per gli addetti su digitale, ma che su il televisore col digitale si è preso. Ma tu un attimo! Ah, c'è problema. Anche a Trento stasera che ho fatto un soccorso a un'imbarcazione in difficoltà. Grazie. Io? Che? Per questa frequenza, vedi, pericolo, aiuto, vedi. Ma dai, in onda, il 27 è entrato. Eia, parlava inglese, basta. E io gli ho dato il numero della capitaneria, mi ha detto grazie, poi ha detto CP, grazie CP, capitaneria di porto. Allora, fatto un'opera buona. Mi sa che bisognerebbe segnarsi di un pezzo di bambino il numero di queste cose qua, almeno se qualcuno come è capitato chiede aiuto lo sa, stiamo già come muoverci. Sicuramente no, non ce l'aveva l'apparecchio adatto. Che raga, ma... E poi mi hanno chiamato a casa la capitale di Rossa. Vero. Volevano sapere se l'avevo risentito, se sapevo il nome dell'imbarcazione, eccetera, eccetera. Come l'hanno fatto loro? Ma stavano ascoltando la 27? No, praticamente li ho chiamati io per dire, per avvisarli che sicuramente li chiamavano perché avevo sentito questa frequenza. Dice, ma lei che frequenza li ha sentiti? Dice, c'era la 27, ma è un radioamatore. Ho detto, no. Dice, se lei di terra come fa a sentire gente di mare che modula sul VHF? Ho detto, no, io non ne ho VHF, solo che lavoravo sulla 27, era la sua banda cittadina e ho sentito e ho avvisato. Penso di non aver fatto nulla di mare. No, per lui no. Ma ancora non si è fatto sentire nessuno. E poi mi hanno richiamato, mi hanno chiesto tutte queste cose qua, strane, Cazzo, abbiamo chiesto se... è strano. Bogura si è strano, uno da chiamato per cosa è la difficoltà. Lo so, ma loro a volte magari pensano che tu lo fai, magari se hai dal VHF, lo senti dal VHF marino, da parte non lo puoi tenere. Ma è così. C'è l'altra gente frequenta, che l'hanno sentito anche gli altri. Addirittura ho messo anche a Manuela a parlare per farsi dare le coordinate, per trovarlo prima. Poi la propagazione se n'è andata, sicuramente non era qua in Sardegna, era nelle coste francesi magari. Oh, in inglese. E può darci che la difficoltà in quei posti lì. Cioè, ma me di. Era in difficoltà, era in difficoltà. Ma me di, sì, tutti. Ma perché? Ma non lo capisce l'inglese. Lui è bravissimo in inglese, molto bravo. Ma allora, è riuscita a capire cosa voleva. Io adesso che era in mezzo al mare, in balia delle onde. Paracciuga. Non sei riuscita a capire dove, in che posto era. Infatti la capitaneria mi ha chiamato per vedere se riuscivo a ricontattarlo, per vedere come si chiamava la barca e in che punto si trovava. Almeno per le tue guardie, io non capisco l'inglese, ho fatto francese. Fosse stato francese non ci sarebbero stati problemi. Magari qualcuno già l'ha trovato. Speriamo. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto noi non abbiamo ricevuto nessuna telefonata. E non abbiamo mai tomato imbarcazione a cercarlo perché c'è mare e se non sappiamo dove andare non l'abbiamo mandata per quello. Ragazzi, è stato un po' difficoltoso. Beh, se c'è mare vanno lo stesso loro, però la difficoltà è lo stesso, capito? Se per andare a salvare una persona rischiano, ma se no no. Beh, certo che rischiano. I sandi zera, Vizio. Ma secondo me era lontano. Io penso che fossero le coste francesi, tipo della Corsica, e arrivava bene, a momenti io lo sentivo bene. Evidentemente, come magari il malottamento del mare, hai capito? E quindi arrivava o non arrivava? Si sentiva che erano spaventati, gridavano, me ne! Dai, Rubino, si è preso da dopo, un casino. Sì, curti, vedi, gridava. Ragazzi, è in difficoltà. E quanti se ne sono sentiti, erano gli amatori pure che hanno salvato l'imbarcazione in difficoltà. Beh, già lo credo. E pure noi facciamo la nostra parte. Se qualcuno entra in questa banda, noi salviamo. Cioè, cerchiamo di fare il meglio per andare a salvarli. Quello che ho pensato io, i numeri li capisco, anche se li dice in italiano li capisco. Allora ho preso un elenco telefonico, gli ho dato per più volte il numero della capitaneria, li ho ripetuto 3 volte e loro poi hanno detto grazie in inglese. E poi mi hanno detto CP. Grazie CB. Oh, Borazzi che stava chiamando anche con l'UHF e non intendia nessuno. CP, capitaneria di porto vuol dire. Capo, capito. Vuol dire che sono intervenuti, magari con la francese. Ah, se ma il numero è uguale. No, ma loro quando fanno quel numero lì mi risponde a Roma, perché io quando ho fatto il numero mi ha risposto a Roma, poi mi ha passato qual è la più vicina, ho detto Porto Torres. E allora mi hanno passato Porto Torres, capito? Beh, logico. No, Roma, se ha risposto a Roma, conosce l'inglese. Gli hanno parlato in inglese, probabilmente non dove si trovavano, loro hanno chiamato la capitaneria francese, nel senso trovavano in Corsica, per dire, hanno fatto uscire la capitaneria francese. Capo, ma no, non ce li hanno le apparecchi CB, insomma un tempo ce l'avessero. No, non ne hanno, c'hanno VHF Marini la capitaneria. Capo, ma io sapevo che ce l'aveva un tempo. Non lo so, io so che c'è un HF Marini e basta. No, ci sono i produttori che fa ascolto sulle bande marine anche, perché faceva intervento a mare. E poi io so che l'intervento a mare si faceva anche con la 27, qualche volta c'era qualcuno in difficoltà. No, l'intervento a mare lo può fare chiunque, se un peschereccio sta passando vede una barca in difficoltà gli aiuta. Però la 27 mi pare che questi servizi non li ho mai fatti, a meno che sia quella di Porto Torres, però non lo so. Ci sono c'è i gommoni, eccetera, eccetera, per fare servizi a mare. Appagata. Vabbè. Tutto bene, quello che finisce bene, dai. Speriamo che sia finita bene. Me lo auguro. Guarda, ragazzi, eh. Perfetto, mica, non ti sappi quando ti trovi, cioè, in difficoltà. Vabbè, vabbè, era un brindisi. Facciamo che quando ti trovi in mare, adesso qualche cosa io, che mi sono trovato in mezzo alle onde, è una burrasca. Ma vengo, mo, Ho con una pilottina, due motori da 80 cavalli, un'imbarcazione che c'aveva anche il piano di sotto, dove mangiavi, eccetera, eccetera. Era bellina come imbarcazione, ma... cosa vuol dire? Le montagne russe ce le presenti, sali e poi se devi il colpo di punta, la t'ha marcata, vai. Capo, ma se era grande, già va bene, ma se era tipo un gommone, oiuia. Grande già era grande, ma le onde pure erano ben alte lì, dunque conto. Quando siamo arrivati in porto abbiamo fatto scena della grotta. Da volta non ci sei andato. No. Meglio con i piedi a terra. A Rubiria. Quando c'è mare non bisogna uscire, c'è poco da fare. Il mare non scherza. Ah, lo so, gente. Il mare basta un poco e... è muri. Ma quelle sono imbarcazioni grosse, tanto che stanno mesi ligando, capito? Sono di quelle barche a vela, magari, grosse, che navigano così, vengono dall'Inghilterra, così, capito, via mare. Ah, ma è sempre quella che hai preso tu? Infatti, sto pensando, non è che sia sicuro, ma perché magari venivano da fuori. Ah, quelli là, sicuramente sì. E quando viaggi un mese di seguito ti può capitare che ci sia mare mosso. Non credo già. Già. E che avrò comunque questi barcaioli, insomma, Maria. Sempre viaggiando, Una passione come la nostra, un po' più dispendiosa, ma... Vedete che se ne va in pensione, si compra una barca e sta sempre navigando. Vive in barca, si ferma nei porti, per dire, va in barca, mangiano in barca, dormono in barca e poi riparte. Esatto, certo che affrontano di tutto. E se no chi si sceme che sono con lo yacht, con lo yacht, chi si cade sempre, sempre via gente. E si fermano nei porti o si fanno la provvista di cibo, di roba va bene, di cibo, non si devono dimenticare nulla, che cade se mai, se si dimenticano qualche cosa, l'arancia. I cavoli tuoi, soprattutto devi andare molto lontano. Quando viaggi un mese, come fanno quelle imbarcazioni militari che prendono un furgone di roba, carni, verdure a cassette, frutta a cassette, tutto a cassette. Beh, un brido, devo viaggiare un mese. Ma l'ho preso anche, tanto l'ultima volta l'ho preso anche il lievito per fare le pizze, no? E l'ha detto, ma c'è anche la pizzeria, no, il cuoco l'ha fatto, ed è anche bravo, fanno le pizze a bordo la sera. Beh, non dirvi, hanno tutto, hanno tutto quello che è, hanno tutto. Sono a casa viaggiante, un albergo viaggiante. Cioè, pagare, dobbiamo stare molti mesi in mare. Un bel di roba, c'è. Una volta sono salito sulla nave turca, la nave da carico, a portare la roba, e il comandante mi ha fatto accomodare su. Cosa mi vuol dare? Ha detto, c'era un italiano con loro imbarcato, mi ha detto, guarda che c'è il comandante che ha detto che ti gradisce il suo ufficio. Sono salito su al tutto. E questa imbarcazione da carico com'era? Tutta quanta... tutte mocchette, tutto bella, mi ha voluto fare il tè, dice che da loro si usa. Mi ha fatto questo tè, dicono tipo arabo, bussino, turco. Mi hanno regalato le sigarette, ma era amico l'uasso. Buone le sigarette. Erano corte, senza filtro e grosse. Regolosi, tipo peggio delle Alfa, sono un bel furto, castello di rivolmi, una barra di rivolmi di 6 pacchetti. Cazzo, io sono di quella imbarcazione, mia mare, che io ce l'ho pesante. E ne ho regalato un bel, me l'ho regalato al Ciso un bel. Ah, te le davano a stecche. E una stecca me l'ha data. Una sticca. Ehi, non tutti no, c'è qualcuno che te ne dà, una volta uno mi ha regalato un pesce spada, senza piccolino ma bellino, metto, eravamo con mio collega, abbiamo scaricato la roba, era proprio una di quelle lampade che pescano pesci spada, una spada, era piccolino, ha detto, ve lo dividete in due col tuo collega. Grazie, non ne abbiamo altro, ma così non avremmo regalato due, invece non ne abbiamo altro, figurati se tutti i cartovella da quintali, da regalare. Poi siamo andati in pescheria da noi, abbiamo chiesto alla ragazza che c'è se ce lo divide, ci ha diviso in due. Ah, in due è tutto perfetto, eh. Gli altri a metà, anzi li ha visto, e poi ce l'ha fatto da me, io me l'ho fatto fare tutta a stracci. E come ti si godi un bel spada? Il forno altro. Un paio non l'avevo mai mangiato, Cosa sembra? Bistecche sembra. No, non c'ha lo stesso sapore, ma lo sapore di un pesce. Sì, ma dico, sembra una bistecca tenere, cavolo. C'ha le spine grosse, là, c'ha la spina grossa, centrale. E poi sono altre spine non hanno, è bello, là. Sembra nostra le spine addirittura. Ma così, e magari chi sono bel cane verde? Senza magari, ma lo sai quanti ne avrebbero, lo so, dovevano ripartire, dovevano scaricare in questo magazzino il produttore e tu ripartire. Poi ne avevano un bel. Ecco, lui praticamente è il pesce che viene da fuori. Perché loro erano di fuori, erano siciliani. E sauliano. Siciliani, erano in gamba. Molte volte quando sali sull'imbarcazione lui già gusti qualche cosa, ma non è sempre. Beh, è logico. E loro già l'hanno esempio di cose. E se tu vai a comprare questa spada con quello che hanno regalato lui costava sugge. Quanto può costare un pesce a spada? Non ho la minima idea, so che è un bel caro. So che è un bel caro, che costa più di raggare. L'avevo visto un giorno, una volta da Ushan, ma c'era qualcuno che voleva entrare, chi è che vuole entrare avanti? E poi lo doveva qualcuno. Era tipo un tonnetto che rimaneva, tipo una palamita, era stato un 2 kg penso, un chilo e mezzo, 2 kg. Ma, il tonno, dice che anche il tonno si cucina anche. Sì, rosso è buono, però non c'è la carne rossa. Duscio è buono. Eh? Non ho mai mangiato, io solito mangio scatoletto. Vabbè, io già l'ho mangiato, ho mangiato anche il lattante di tonno, mammelle. Non mangio mai mangiato così. Le mammelle del tonno sono come i testicoli, se si accorge, si fanno impanate, fritte. Non l'ho mai mangiato così, sempre mangiato la scatoletta, è buono. Ma non ho capito che dopo il tempo che sta parte siamo solo parlando di mangiare, anche ieri. Mangiando sempre per favore di mangiare. Beh, mangiare troppo però è brutto. Basta mangiare regolare, non mangiare troppo. E anche a dirlo è facile, a farlo è vero, Perché io mangio regolare. Perché a marino regolare, quindi a mangiare. E chi te l'ha detto? E chi non lo vede? Andate a guardare i milioni di panini di bomba, e avevi già mangiato anche, hai continuato a mangiare i panini, l'ha detto Pierpaolo che ti ha mangiato un lavamano di battantini da lì. Ma niente. Che ha fatto le patatine da cui roba tipo sofficino, roba così, hamburger, dice che tu sei abbondata. No, infatti quello che non ho digerito, viaggio durato, ho dovuto ripiazzare perché è come che non avevo mangiato niente. Ma quella roba fritta l'ho vomitata perché fa male, ti è stata sullo stomaco. No, ma io ho risolto subito. Non sia che sei a dieta, Marino. Ma che fa a me la dieta? Cosa devo fare a dieta? se c'ho fame. Mangia. Mangio sì. Buoni sono che pareva, ma la so, se vera me. Ah, va, oggi mi ha fatto uno un adattore con le patate al forno e il ketchup. Quelle del pollo? Eia, a che male so? No, sono degli accumulatori di colesterolo sono, perché li metto sotto al pollo e dico c'è tutto il grasso sotto. No, conti che sia un forno, senza il pollo. La mia puttana me del colesterolo. Però so che non ti dà fuori. Bisogna stare attenti. Io già, io ti dico una cosa. C'è gente che chi mangia e ce l'ha sempre a posto. C'è gente che non mangia, cioè di chissà cose così non li mangia e vi dà sempre altro. Secondo me chi è predisposto ce l'ha altro, se non è predisposto l'avrà sempre basso, secondo il punto mio. C'è un fattore anche ereditario, che c'è gente che non mangia grassi, non mangia roba così, eppure ce l'ha lo stesso. È un fattore ereditario, quello non si può fare nulla. Ma c'è che dall'alimentazione sbagliata si prende il colesterolo, tutti i grassi, tutti i zuccheri, un po' carboidrati. Sì, io mangio un po' con tutto. Vabbè, meglio così. Ciao, ma mangio bassa, mangio altri cose. Però non mi piacciono le bietole a me. Pure a me. A me piace quella selvatica. Quella è più saporita. Io metto un po' di aceto nelle bietole, mi piace un po' di aceto. No, io no, ne metto un po'. Devo sentire anche il sapore della bietola, intendi sapore di rubino, no? dell'azeto. Io sento anche il sapore della bietola, però quel sapore di selvatico mi ottuso, capito? Mi piace un bel aceto pure, sono un dragone d'aceto. Come sta bene di salata con i bianchi? Ma fa gaffa. No, mezza insalata non è buono, vedi? Come? Mezza insalata, l'ha detto, non è buono. Buono solo rosso. E la pomata, che a me piace un bel... Sai, figlio di pomodori, quanto ne mangio? Ah, ma gaffa. Tu, mi gioco trumenti. Non entra nessuno... Faccio pure il cielo che manco l'ascolto, va. Brava, il batterroie. Vabbè già, usiamo che ti dica. Buonanotte. Strano, mi sto addormentando un bel presto. E già, poi cosa buona sì, sta cosa? Boh, non lo so. E là, ci sentiamo. A domani. Brava, buonanotte già. Ci sentiamo. Sì, vabbè, mi dispiace. Ciao, ciao. Luca, ci sei. Ciao tu. Poi, Natale. Non fare nomi. E se te non lo so, vogliamo fare nomi. Tu vuoi fare, ti dici? Non sei un bandito. Che non fa nomi tu, apri ti dici. Miau. E allora? E allora ti devo chiamare miau. Chiamami carissimo. Non la vede. Ciao. Ma sei molto bello di nuovo. E beato, va. E allora come va? Sì, salva. Luca è al computer. Il computer sì. A lui è, io non ci so al computer. Giorni senza sentirti. Beh, lo so pure. Tempo di vedere. La quinta questione a posto. E io la vedimo. Non mi ha ricordato nulla ancora. Ma mia. Mi ha lasciato venire una. Sì, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Sopportiamo. Finché possiamo sopportare, dopo quando non sopportiamo più, capito? Ah, forse ho capito cosa dice, no, non è a posto ancora, no? Ah, no, no, no. E purtroppo ci passo un mese e mezzo per arrivarmi i soldi, perché io ho pagato, però cazzo, vuol dire che hanno detto un disubito di là. Però andando a voi un mese e mezzo, maledetti, intanto non le faccio lì. Ha detto un mese e mezzo, però dai, di non mi porta assicurazione. Ma sono fan, lì, no, ve ne asciano. Infatti proprio per questo ho detto, no, no, no, date parte che state facendo, mi rimando i soldi, non ne assicuro più, ma... Vabbè. E tanto, a papà chi ci mette sempre in tempo? Lui da sei tranquillo. Beh, giustamente, io sì. Io mi sono lasciato con meglio rete. E le varie e grazie. Cognato, non è una gara. E purtroppo, le cose come queste, tutte a me capitano. Sono sfortunato. Purtroppo la fortuna mi perseguita, diciamo così. Esatto. Buonasera a tutti, ciao carissimo. Buonasera. Ciao, ciao, ti ha salutato. Già mi conosce anche bene, che fai? Ciao. Bella! Ma scusa, ma te... Ma che c'è la camera? Non so, riuscite a capire chi sei, Si rifiuta il regame, è andato con Franco. Franco? Dove c'è la Franco anche a te? Brava. Oh, yeah. Siamo Cristian. Sì, piace. Sì, sono Cristian, sì. Ah, certo, e ci ha comprendito, vede. Provoci diverso. Che sta gente che li fa vedendo e li fa vedendo il bacio, quindi non riesci a comprendersi. Sì, anche io non riuscivo a capire chi era, arriva il basso qua. Cappa, Cristian è. Già ho capito che è lui, però adesso... Caffa, caffa, ma tale chi tu vuoi sempre è, dove? Chi tu che sai? Cava, cava, sempre lucido è me. Tengo bene, che cosa, mi piace di troppo. Eia. Caffa, caffa, adesso gli ho messo un bel alimentatore anche. Quindi è una grande. Ciao, ma canta di segnare. Fai. Te prova. No, beh, non ha ancora la 48.9 sta arrivando. E allora andava bene, Natale. Ma proprio, proprio, proprio. E a chi vuoi buoni già, ma tanto. È vero. È vero, lui. Ma è bravo, tu devi capire che io sono piccolo, e tu sei grande. Sei piccolo e nero? Cava, io sono piccolo solo di antenna, precisiamo. Ma già te la mantengo io a Luca e tu lo picchi, così impara. Diciamo che mi metto la manto, va, poi ridiamo. Se non ti metti la manto, vai ti faccio parlare con Mulo. Senti cosa fai tanto, con Mulo adesso ti fa parlare. Capito però beh, poi ti faccio parlare in un muro. Sì, tu sei carabinieri. Certo, fai da bravo. Tu sì, tu qui, ti faccio mangiare un brasolino di mammo. Sei di giusto, ti mangiare. Vero, è la messicana. Chiama la polizia. Finanza. Io ti faccio squillare il telefono. Sono telefonino, mi dispiace. Tu via, una scena era Paoletto. Non se ne voglia fare nel caso nell'ana. Luca, Luca, Luca. Lui signor. Quindi carissimo. Sì, io la riprendo, la riprendo. Mi si sta calando la panterra. Meglio così, ora lo puoi riposi. E della voce, anche non sono manco dormendo lei sul problema. Come vai? A cosa ne so io? montagna, c'è un tracco molto e si fa la nuda. Questi sono i pensieri che si sviluppano. Che sono attrezzato a forte. Vabbè, riprendete che all'inizio vi ascolto e sto facendo cosa. Sto cercando una cosa che non trovo. Trovo tu. E una cosa non mi sto trovando. Ah. Io una cosa ho perso. E dimmi, ok. Dove lo sai? Oh no, non si chiudono ancora. Oh, io mia l'ultima è sempre il suo QRM, no? Dopo il QRM, che capiano è pochissimo, no? Cappa. Anche se io ci sono delle persone. Che l'ha fatto Luca? Dici che se si sintonizza il livello del cuore. E ancora, non ho detto cosa, pensa che si sintonizzate. Sei contento che ce l'ha pure lui, meno male. Vabbè, ma la facciamo tre ultimamente le cose, pure. Brava, e tu ce l'hai le cose, sì? No, satellitare terrestre. Brava, digitale terrestre. Ma cosa c'è, quello con la scheda o quello senza? Ne faccio uno stamaccato, o cosa, un gheffardo si chiama, è un piccolissimo però. Che affa. E pushati grandi e si vogliono televisore. Un'agenda è più grande di quelle cose, figurati. E che affa, andate. Scusa se volevo a guardarmi il telegiornale o il film e basta, no? Non sono fatto niente. Allora, chi è che voleva entrare? Avanti! Boh, c'è qualcuno che voleva entrare. Non ho sentito nessuno, sono schiacciato sicuramente. E guardi che i nobili sarò tutto qua, la salotti. Sto pagana per me. Anch'io sono stanco, sono chiamata, non mi sono connessa neanche. Ragazzi, è davvero, vedi, è caffè bravo. Ma già mi sei risuscitato. No, io sono sempre all'ascolto, non mi sono mai addormentata. Attenzione. Sto sempre ascoltando io. Ma vagava. Grande, ascolta questo. Se devi far come... Via. Noi? Che cosa è? Un coso amoroso? Yeah, perché lui ci aveva il feeling con Falcone. Io la pelliccia addosso. Falcone, quando sentiva il tuo pelo... Ciao, ciao. Ma che fine ha fatto? Dove ci siamo per tu? Che ha fatto Falcone? Qualcuno gli ha buttato l'antenna. Girate. Ma è che no, e a quanto ne so io è assorso. È dalla sorella. Allora. Porta la madre, quindi lo porta la sorella. Su. Sì. Sento un po' di più al microfono, c'è un po' basso di radio. Però la voce bassa, che c'è lo padre davanti alla camera. Ah, ecco perché. Allora, quindi loro ci si siede a Allora tutti questi fare furbo. Vedi che se io parlo a bassa voce mi sento lo stesso. Se si vede il tuo microfono amplificato. No, lo comprerò più in futuro, adesso lo lascio il tuo microfono, lo comprerò. Microfono amplificato. Con qualche modifichetta, guarda grande. Ma che lo so come si fa, non lo proprio. No, puoi parlare anche a bassa voce senza problemi. Io col mio, ci parlo anche a distanza, mi intendono ma stessi. Ne ho uno che si intende tutta la stanza. Però già, cioè, io ho due microfoni buoni anche. Microfoni perché? Cioè che vanno bene, perché no. Cioè, parli anche da lontano, sì, tranquillo, ti intendo la voce già. quindi non hai problemi. Tu non hai freddo, dici, mi pare, coso, Cristian, che ci va bene. E capo, non è schiacciato. Ricordi Cristian, visto che non sono smemorato io. Certo. E tu dici una vecchiaia, no. Ho abbastanza memoria. Sì, ho memoria, però ormai sono invecchiato. Che ne ha fatto le 12? Le 12? Cosa è stato? Beh, che non ero grave, quello ci va forte. Forse era modificato. Lo so, prendo riserva. Sono tutte. Invece se non riscontrano qui vicino a me, mia madre lo... quando l'ha scatto l'ha messa a posto. Almeno puoi parlare anche a bassa voce, non ti cambia nulla, cioè la modulazione è sempre perfetta. E perché lui c'è buono? Quello è buonissimo. Chi lo fa? Come? Ah, la ditta chi lo fa? Chi ti è? La cosa è amplificato, è vero. E allora? Vale, non ne ho mai usato. Quello è buono. Bisogna cambiare la capsula, fare alcuni accorgimenti per riuscire bene. È come quello che ho io. Una bomba. E Antonio, riserva le ha fatto Moretto. Non lo so, già, ha fatto alcuni accorgimenti e c'è la bomba. Cosa la batteria dentro, c'è. Allora, la grande. Per rosso. Io ne avevo visto uno che c'aveva una batteria a filo dentro, non so che cavolo di microfono sia. Lui, quello è CTE, ti ha amplificato con la rotellina sotto. E mi pare. Il CTE nero è tipo CTE normale, poi c'è la rotellina sopra. Gaffa, avevo visto un apparecchio, un supercar. Ma dove? Su internet? No, da una persona. Vanno bene, l'ho visto a Baradicola io in parte. Sì? Meglio. C'è una batteria a filo dentro. Sì, durano anche un bel. No, non lo so. E meglio, lo so perché l'ho avuto. Ho avuto l'FM500S con il microfono lì. Prova qua, prova là. Meglio così, almeno sai come funziona la cosa. Io l'ho avuto con l'FM500S della Nike. Ma io no, non ce l'ho mai avuto. E tu l'avrei voluto provare com'è. La roba è bella. Se ti rompe forte. Vero, confermo. Allora, e comunque, oggi questo microfono qua si adatta molto bene al apparecchio. Ce n'è uno sopra, su internet, in vendita, su B. Qui, quello qui? Via. Non fai affa. Stavo dicendo già, mi sono accorto di una cosa, e con questo microfono qua va molto bene al apparecchio. Via. Io cambio. Allora, un attimo, si sente. Ma sta sempre, se no caspeggia, perché mi sento che lo vicino non c'ho cuffie. Ah, no, ora si sente una cosa già. Importante, è l'appetiti? No, non è appetiti. Guarda, ora, non è appetiti. Che cosa fa? Oh, quando faccio silenzio si sentiva l'alimentatore. No, negativo. Niente? No, perché c'è il mio attaccato, non lo so. Ah, cappa. E tu lo senti l'alimentatore? Passati. Cosa lo sento? Cappa, è distante. È difficile, guarda. Appena brutto. Questi sono piccoli ammettatori. Assorbimento un po'. Sembra la ventola. Cos'è l'ammettatore? switching. Ce l'ho proprio la mano sfruttata. Voi ti fanno bene, cavolo. Io se te lo fate andare a morte. Qualche c'è la portante, si accende la, cioè, la ventola e gli dà più forte ancora. Che fa però mi fa freddo. È fatto così, perché raffredda sempre. Così? Ma, conosci queste, quelle Raprox, il switching? Sì, che li conosco. Pagava. E vanno molto bene, vanno. Pure se alcuni dicono il contrario. Ma se ti dici come vanno bene, non... Pure se l'ho fatto uno va benissimo. Va, vabbè. Andare. Riprendi già, o stai chiudendo? E insomma, sono così di per lì. Dovevo starzilli oggi. Montarzilli, e chi lo sa Marzilli? Insomma, un tanto. Si sente che siete stata. Grazie, cioè, noi siamo sempre di Pisa, sempre io. Cosa qui? Noi due siamo ancora di Pisa. Ma quello di Pisa, ma cosa? Si chiama Secato sul fianco. Oh yeah. Dove te la mia cosa te la drizzo io? Grazie. Ah, che sto scherzando per drammatizzare. Ma no, ma c'è una cura. Ma sai come si chiama? Si chiama Mauro Macciocco. Massaggiatore. Io devo essere Macciocco. E che lui ti cura. E a voi, io sono il suo amico. Volevo fare dei massaggi, Chiccio. Sei massaggiatore delle squadre di calcio. E non si è. Dei pugili. E la massaggiatrice non c'è. Non mi piace, però non c'è. Ah, non c'è massaggiatrice a femmina, insomma l'avrei fatto massaggiare io. Gianni, i massaggi ci servono? No, a Cristian. A te no? A me no. No, perché sennò conosco un ottimo massaggiatore. Sì, ma se non mi servono pure una massaggiatrice anche buona, se no niente. Vabbè, è un buon massaggiatore, no? Adesso mi rivolto. Massaggiatrice faccio un po' di vibromassaggio con la vasca da bagno e poi mi faccio fare massaggio. Scusa, ma a te ti serve un massaggiatore per farti massaggi oppure vuoi fare qualcosa? Non è proprio un massaggiatore, che serve a Cristo perché ha mal di schiena. Sono altre serve a te, va? No, grazie a Dio, a me no. Non mi va, bruissimo, che mi si non mi sapere che cosa bisogna fare. Mettilo tra il 3 e il 4. 22. Eh? me lo dite, troppo, perché te lo abbassa? Ma, attento, Salvatore Mare Agricola, come te la senti oggi, cara? Mi senti, sto quanto bagnato. Ah, in tutta l'acqua ti sei preso? Yeah. Mi dispiace, è un casino questo fatto. Oggi tutto il giorno facendo piovendo. Ma ti vuole l'acqua? No, no, no. Non si deve dimenticare di piovere. Deve piovere una volta al mese. E cazzo grappa. Non so che tu sei contento quando piove, almeno poi... Dai, poi come ti si dice, puoi seminare, raga. Dai, si già seminato quello che ho seminato. Almeno ti cresce il raccolto. Prossimo anno, però. Salvatore. Via, Bobolino. Ah, va, ti sento un po' spento oggi, Sono acceso già. Va, stanco pure tu sei. Così. Ah, ho già visto QRM stasera, è un casino. Boh, mi ha dato dei bigli a mare. Come si è salvato un giro? Andando a casa, perché la spada non va, non dico non lo va. Allora, Eia. Sempre in giro, Ziga, boh, boh. Baraccamento agricolo. Esatto, io non sento niente. Ora ci andiamo a ballare. Sì, lo vado di mus, di zoom. Facciamo il ballo del mattone. Il ballo degli zombie. Cosa? Perché siamo due zoom. Figaro, però... Cosa? Meglio tutto il giorno, pure che allora mattina con l'uno con l'altro, qua, per dire, mia moglie c'è a fare la spesa, se ancora su, la beve la baranura. Se diciamo il fatto, sono a sopportare, va. Sopportiamo. Dai, sopporta, sopporta. Avrai, hai fede. Dai, guarda, fa una settimana si apposta. Da chi non mi ha invece io stavo disfugliando, ma dove mi ha scritto come si faceva è bloccato. Come mi è successo una mattina, non sono andato a lavorare, ho preso il traspallo, stavo salendo una pedana, ho un patto per alzare la pedana, sono rimasto vicino, non più al papà, sembravo incassata. Io ormai dobbiamo andare in pensione, diciamo il lavoro chi non ha lavorato. Noi ci andiamo a pensione. Guarda, se stai ancora parlando io, non ho neanche un giorno assicurato. Davvero? No, sono un giorno assicurato, no, io da quella tua sono stato sempre fortunato. Ogni posto dove ho lavorato mi hanno assicurato. No, la salute come sono da solo. Ma dove? Quella vita che fa... Che fisi? No, fa la sera. La faccio? Dopo tutto, pubblica. Mi ha fatto anche io la mia pubblica, la colori. Poi sono licenziato perché la famo solo tre sarti tra senza romani. Io l'ho fatto un mese, era molto più, poi si hanno licenziato tutti perché ha fallito. E subito, gli ho usato pure. Ma io facevo, usavo Citoflex, rete di sfondamento, facevo la saldatura ascendente e discendente, all'italiana, americana, e tubi che ci stavo dentro io due volte. E quando respiri l'aria che c'è dentro, la saldatrice io, quando respiri un po' fai porcheria. Cavalli. E mi sente. Cavalli non lo senti? Ed è sta cosa qua, aspetta. Cavalli non senti a Giulio? Grazie, mi hanno detto grazie, CP, CP, P, vuol dire che la capitaneria era arrivata, capitaneria di porto, CP vuol dire. No. Grazie, grazie, CP, CP. Non siete giovani durati. Vabbè, dai, ma non è niente particolare, magari non sapevano la situazione, hanno chiesto tutte queste cose, ma comunque non sapevano la cosa. Ma comunque tutto bene ciò che finisce bene, dai. Non mi hanno capito, pure non è così, amati, sul canale 21 non c'è nessuno, loro lo sapevano che dovevano andare su 16 per... Ma di che metto, non sto parlando di VHF, sto parlando di 27 MHz, che è praticamente la banda cittadina. E c'è affagato. Ma... Comunque, già è stato... C'è importante che li abbiamo mandati i soccorsi, poi il resto conta poco. E vabbè... Che problema, io sono tranquillo, se volevo fare una presa in giro non l'avrete fatta eccetto col numero mio. Beh, certamente che sì, beh, ma sicuramente hanno capito la situazione, beh. E hanno voluto solo sapere, basta, tutto lì, come è andata la cosa, perché prima mi ha parlato un po' di un'altra. Vabbè, no, non sapendo loro. Comunque, è stato fatto. Infatti. Poi probabilmente li hanno soccorsi da altre parti. Però il fatto che io li abbia dati i numeri, loro hanno chiamato e mi ha risposto a Roma, perché la prima volta che ho chiamato mi ha risposto a Roma e poi mi ha passato a Porto Torres. Veramente gli ha risposto a Roma, loro gli hanno parlato in inglese, gli hanno detto dove si trovava, il nome dell'imbarcazione, gli avevano mandato i soccorsi più vicini, se erano quelli in corso che li hanno mandati dalla Francia. Ma probabilmente da qualche posto li hanno mandati. Sì, sì, è successo così sicuramente. E a quel numero che gli ho dato io hanno risposto la capitaneria di Roma. Poi da lì centralizzano tutto, quindi passano le mani, mi ha detto dove è la capitaneria più vicina, e ho detto Porto Torres, mi ha mandato Porto Torres. Sicuramente sì, è successo una cosa del genere. E il numero praticamente se l'hanno segnato, perché io poi ho chiuso, perché stavo aspettando che mi passasse la linea, Porto Torres faceva tu, però... non rispondeva nessuno, però l'ho preso chiusa, ho pensato che si fosse mancata la linea. Dopo 5 secondi mi hanno chiamato. Che appoggio, già, l'ho detto poco fa anche. Ma comunque l'importante è che sia tutto bene, là. Che ci siamo riusciti a mettere in salvo. Ero qui, Lucas. Alessà, riprendi, ciao, buonasera. Alex. Mio... Cambero, mi prendi. Non mi piace uno in occhi. Cristian, la prossima volta ti mandate a nuoto. Sono sempre a nuotare. No. No, sono forse a nuotare. Davvero? Sì, davvero. Come mai non hai mai imparato? Sono sciocco da piccolino che non ho mai superato. Ma sciocco di nuovo? Stavo fuori da Ben Giorgio. Ai ai ai. A me lo sai come mi ha desiderato a nuotare? Se l'ho fatto in gommone allora che mi sta in lampada, non vuoi che tu ci vuoi cominciare a nuotare? Se ne scendevo, ti ascolti subito. No, non è vero. Ti vedi... Che conta qui, lo fai. Ancora un spizzetto, non si ci vedrà pazienza. Iai. Prima. Via. Qua a giugno, sono un giugno qua, ho cambiato parecchio. Bello questo? Migliore, sì, è più forte. Viene Emo. Viene lui, ogni tanto l'ho prestato a me, adesso vado io. Così si impara. Però la tua voce è più bella come apparecchi, più forte. Sì, certo che sì, lo sai che è più forte. Che maro mio. Oh mio Dio. fatica, compresi i finali, doppio modulatore, eccetera, tutto 100 euro. Il mio cambio. Perché non riesco bene. Vabbè, intasisci bene o no, tanto. Sto dicendo che c'è questo kit 100 euro. E che fa? E mi ha detto, infatti, però bisogna saperlo fare, dai. E per Paolo si arrangia, si guarda lo schema. Attenzione, Alessandro, se mi ascolti, chiama. Io sogno. E che radio hai messo che sei chiaro chiaro adesso? Questa, la mia radio, E fai ragione. Caspita, è proprio così tecnica la doia. Quella era l'altra radio, questa è la mia. Ti la intendi? Anche io si intende. Ma non c'avevi l'ecco, come mai è andata a finire un via questo ecco? No, c'è certo che sono da radio mia, e io ecco qua non c'ho le tale di te. Se vuoi te la faccio io roba di... dai, 30 secondi ti faccio anche l'ecco. Vai, va. Ti sarebbe contento. Non c'è bisogno, no? Ebba. Alessandro, ancora tu, sai chi sono, Roberto? Attimo. Tu conosci mio fratello e poi mia nipote. Mia nipote? Ma è grande? Piccola. Visio fin denti, Te capelli anche. Se... alla prossima già ci incontriamo e ci vediamo. Perché adesso veramente non so chi sia. Il fratello Antonio mi serve. Vagava. Vagava. Allora ho collegato, sì. E io. Sì, perché siamo sul baracchino anch'io. Bene. E già, c'è Cipforte, noi a giocare. Con che antenna sei? Che antenna c'hai? La 1. La 1? Vabbè, e mi arrivi a palla qua, Radio magari bassina, però come Santiago è forte. Sì, dovete cercare il microfono che aveva prima, le fiducia ci vuole bene. Grava, se si mette un microfono lì spacca tutto, perché mi arriva proprio a PVR, cioè quasi al massimo qua in questo baracchino. No, a me no, a me mi arriva 9-10 quasi, nemmeno. Ma non fa la gamba bene, sta come si sentite fuori. No, chi è che sta facendo macello? Manda via, che sta lì tutto un roscelle. Via, come si può mettere la brima? E scendi di brutto, eh. Ah, no. Vedono. Sto fratello alle mani d'oro, adesso. Già. Ti ho fatto dalle mani d'oro, ma tutta della fandina, come per miracolo si stura. Kappa, già te l'ho detto. Ah, cavolo, Alessandro. Hai rotto. Ma, sto fratello lo lavora, appunto. Ma appunto, Bianca e io. E allora era eso, ti ci assomiglia. Non molte volte ci dicono che siamo preziosi, ma io una certa rassomiglianza non la vedo, ma comunque. Cavi assomigliate. No, con una carica già sopra, vero? Cazzo questo ne manca l'imperiale, guai. L'antenna sua è diversa dalla tua, molto diversa, vero? C'ha un... una di antenniniere nere, dai. Una cobra 400 credo che sia, gliel'ho regalata io. Com'è potente di antenna, se ci mette qualcosa sotto spara. Allora già detto, mi passa da fianco stamattina. Ogni inverso. È passato a fianco stamattina, sta innescando. Mi è passato a fianco stamattina. Pagava, avrei detto, ma cazzo Alessandro, con la punta bianca, No, no, già me ne sono accorto, c'era qualche diversità. È più basso di te. Io pure un po' bello più curioso. Smetta le mie baci. Vai, già per in gamba. Pagava. fatto della maglia, un matto della già. Non lo sta facendo. Va. Riesce bene, figlio. Vediamo, io quando vedo giudico. Vai alla. Ma me l'ha detto che è preciso come esce il colore. E beh. Ecco che ci accontentiamo, pur di non vederla sfondata. Ma tanto che sia, vai. Se non è preciso. Allora, l'importante è che sia più o meno quello, Infatti. Che colore è bianco? Bianco laccato. Il bianco, vai tranquillo che già non fugge. Il bianco si può copiare benissimo. Fosse stato un nocciolo, un colore diverso, un qualcosa di diverso, allora ti capisco, ma col bianco ci giochi. Perché tu l'hai fatto falegname? Magava. Sì, che io sono. Però non proprio falegname, io facevo il restauratore di mobili antichi. Parlato così. Sì, se no peggio, voglio. Addirittura incontravano mobili che sembrava spugna, cioè presente la spugna, qualcosa del genere. Allora le facevo una colata di resina e le ricostruivo proprio la parte mancante, un travaglio da voglia, lasciava perdere, va. E non mi curio, me l'ha ricostruita la porta con la resina, me l'ha fatta perfetta, proprio perfetta, che non si vede nemmeno la giuntura, niente. Io addirittura ho fatto parte di chiese, cose, roba antica, vero, mica, roba antica, parte di cose da museo, dai. Ma non mi ci butto più a fare quelle cose lì, io ho troppo tempo ci vuole. E magari qualcosa per te, per la casa tua. Questa è cosa mia, a voglia, ci metto il doppio del tempo. Ma se è cosa dell'Ashley, come te la famosa della papperetta, per rifangularla. Solo qualcosa, gli ho fatto un lavoro che valeva più di lei e dopo per non avere una ricompensa morale per niente. Vabbè, a prescindere dal fatto che quella finanziaria andava bene, però la ricompensa morale, tu mi hai capito quella è, quella migliore, quella quando ti dicono bravo di Russo, tu chi sei un cane come te femmina. Che cosa ti ha disprezzato? No, non me l'ha disprezzato già, ma soddisfazione zero, cazzo, la classica miliardaria del cazzo. Da papà che cazzo di dire, basta. Allora, tutto ok. Vabbè, tante volte ti appaga di più il fatto che ti dica, è veramente carina, come l'hai fatta, bella. Piuttosto che i sughi, capito? Magari. L'importante è che il mio titolare mi abbia detto Sandro di Russo, andava benissimo, perfetto. Se dopo l'avrà detto a lui, al titolare, che andava bene, non lo so, a me non mi ha detto nulla. A me mi ha trattato da Gani e boom, perché mi ha capito che sto dicendo, la frisura, quella dell'industria papetta. Ho capito. Perché fa la carta igienica. Dai là. L'avevo risposta male, infatti l'avevo detto, ascolti, lei se sa fare quello, facci quello, no, non venga a dirmi la cosa che so fare io. Cazzo, magari l'ho offesa per quello, però, via. Hai detto il tuo vicino, non di sa carta igienica. Mi fanno scopo, carta igienica, spugne per lavare i piatti, tutte queste cose qua. C'ha tre tipi di carta igienica, papperetta, papperona. E paperina. Tu mi auguro quasi già, hai offeso. Allora, è stata un'ara, l'ha già detto, un po' così offesa, mica. Teori bianco, raga, che vado, che non funziona internet qua, dici che è colpa mia, c'è un momento. Funziona internet? Lascia perdere, adesso devo mettere il moto, dai, un attimo. Ma cosa funziona bene? Cosa succede, che vai in palla. Io lo sto riformattando il mio. Brava, e ogni volta quella è una. Dobbiamo stare riformattando uno della finanza perché abbiamo scoperto che c'è qualcuno che entra nel mio computer, capito? E quindi bisogna scoprire chi è. Beh, giustamente sì. Ho fatto direttamente il keys, maniciarlo di finanza. Bisogna scoprire chi è che entra, frugare. Ci dice Luca Sagna già ne sono contento, perché ha detto mi scrive un intruso eccetera eccetera, sta cercando di entrare nel tuo computer. Così. Allora, sono le palle in terra. La paga. Bravo, bravo. Ragazzi, io mi scuso qui, non devo anche mai. Chi è che chiama Luca Riello? Ciao. Ah, ci sentiamo. C'è qualcuno che chiama Luca Riello sotto foto. Chi è che richiama? Ecco, ci chiama Franco. Franco, canale 21. Ehi, da dimmi, ciao. Era 45, ma non ti sentivo, Su quale canale devi andare? Perché qua io non lo so. Era 45, quali sono qui? Su quale canale ti corrisponde a te? A me mi risponde mandami 5 su, 5 sotto. Vabbè dai, prova. Scusate. A tutti corrisponde così. Cavolo. Avanti, tanto. Ciao. Dove zicca già? Vedi un po'. Cosa fai? No, ce l'hanno già loro. Ce l'hanno già loro che lo stanno controllando. Che problema. Spero che non sia come stia pensando io. Ma frega niente, chi è che non è? Chi è la paga? Sì. C'erano il tecnico che gli si hanno a scurciare il carito. Non c'era anche chi è stata. Sì. Oh già. Lui. Già te lo dico in verticale, dai, qua non fa a dirtelo. Già. È tre volte che cercano di entrare, non ho capito. Mettili la password, te. Entrano con la password, Antonio, io ho due password, una di entrata e una per accedere. C'è la condivisione con me, praticamente ci abbiamo separato io, mia moglie e mia figlia. È entrata tutte e tre di base. Ah, grazie. Come entrava da noi e ve lo demo noi tanto. Il computer te lo devi lampare. Io preferisco farlo analizzare. Voglio sapere chi è. Ah, Gaia. Cavagava. E già. Se sono un gruppo a farlo da noi. C'è il coso di antidifesa. Edu ha finito di fare queste cose. Ma c'è chi c'è il bottone, è a posto. Vabbè. Beh, chiudiamo parentesi, non devo improvvisare. Ragazza. Se no devo manco dire. Fatti dire. Avanti, chi è rimasto per qua? Adirati siamo, tutti adirati. Siete consumati, io posso portare l'energia fino a domani mattina alle 6. Che se c'è fatto un telefono parlando sul 45. Siete piccolo, piccolo, non si sente. Io non lo sento per niente. Beh, tu non ce l'hai vicino come ce l'ho io. Ce l'ha due passi per fare. A te ti starebbe bene un 48 gabagaba. Ho capito, me lo vuoi regalare a tutti i costi, non lo voglio. No, te l'ho detto che c'è il kit per fare. Già, sono già sul limite qua. Sono già al limite della sopportazione, cioè entro già in un telefono. Figura di maledizione che ho qui. Macchina. No, non porto più niente in macchina, in macchina sono omologato. Interessa niente, chi mi vuole sentire mi sente, chi non mi vuole sentire mi sente, no, basta. Tutto finito. Iai. Vada. Viaggio. Va bene. partita anche per me, no? Addirittura finale, quanto c'è? Si vuole una cosa buona, ma non mi interessa. E vabbè, non la vediamo da sua. Cavaga, prima te lo volevi fare però, eh? Ma non ho saltato che no. Lo sai dove vado io, no? È già. L'abbiamo parlato, no? Si è aggiunto anche quello buonanotte. Eh beh, quello sì. Oggi è bello. Meglio me ne fanno un capisano, perché poi lo sai come te quando vedrai. Cominciano le macchie a fare macchine e cose, dopo lo sai, no? E va. Cristian se n'è andato, mi pare. Ha chiuso poco qua, l'ha soltato. Io l'ho soltato anch'io, se mi stavo sbagliando. Chi è rimasto? È rimasto io, Piantavo e Antonio. E Gianni. Cioè, naturalmente sei tu che l'hai chiesto, quindi io ti ho risposto anche in maniera. Cosa, quando siamo tutti e due malati, perché non facciamo un lettone grande? Ci facciamo mettere su un cavo e ce lo facciamo portare in piazza del Signore e rimaniamo giorno e notte. E vabbè, ma siamo tutti e due grossi, per farlo ci stiamo. Infatti, se tu hai sentito bene, ho detto ci facciamo fare un lettone. Poi passare un camion di la moda e sta pensando che sia di chi si così lampati e si carregheggia. Ma sarà che c'è sti cuglie del buio della mondezza, ma cazzo c'è pure tu. Sì, perché mi ci butta le lenti, in piazza di sede ci butta le lenti vecchie, mi sa che te lo faccio. Già lo so, già, ma sai, e di se non c'è la mondezza, io via. Vaga, tanto niente, cosa ha girato di bello? Niente. Allora racconto su queste sei cose. Ma no, a proposito, hai regalato, vai. Al buco. Cosa multata. Contento era? Brava. No, era contento, no, del sapo. Ho visto anche il coso. Ranger. L'uovo nuovo è capo. Ma non so mai se un Ranger non ci piace aspettando, cazzo. No, fidati, guarda, è nuovo proprio. Prima la già scacciavitata, che la volta era scacciavitene. Non è vero già. Figa, non la mano giù a scacciavitare tutto. Lo conosco anno. Ho sentito come esce il tuo odiato. No, è nuovo, non ha niente, c'è anche il microfono originale, nuovo questo apparecchio, è proprio lucido. E chi si arriva a vedere quello che ci vuole? Visto che va, questo di no, che invece pare che mi sia ridendo, che per loro ogni tanto lo prendo, lo uso come una palla, l'ho dato al muro. Ma io non ho parlato di... lo so, parlando di questo, è cazzo già usato Gianni, che uno c'è il nuovo nuovo, lo sa ben muovere, nuovo e nuovo di zecca. Non c'ha manco un grasso, niente. Ma cosa che parte a casa mia, te lo so. Sì, una cosa che rimane in occhio rimane così. Tranne che se vuole il moto, la terra. Allora io se vedo roba grassa parlo di più. No. E se la prendo la restauro. Vabbè. Purtroppo l'hanno toccato, lo sai come te, no? Vabbè, così. Se ti metti in una staffa invece, non c'era bisogno di graffiarti. Sì, già, anche. Anche il superstar che usavo c'era la staffa, ma. Ma tu non sai come te. No, non è che ha niente, no, è un sul nero, c'ha un paio di grafici, ma già sono fattibili. Quale? Per stare? Io. Beh, una passata non la possiamo dare. magazzino non fa. Perché non fa? Se non la vedo, non fa. Io non ti rispiro in Italia. Sì, io ci arrivo e portando il coperchio. Se no già, ma capo un cavalletto burro, vai buro burro. No, un cavalletto. Ti metti quattro pezzi cosa sotto i coperchi, che non lo si attacca. E via, e vernici, come faccio io? Metto la carta sotto per non sporcare, no, sempre un po' di pulviscolo vola, e tutto il pavimento lì, nel casino. Infatti c'è un gioco che avevo la tovaglia sotto. No, c'era la carta, solo che attorno alla carta arriva il segno, adesso la coperta nuova, ehi, mamma mia, sei un tucchio, ia. Ti mi ha dato a toccare il cavolca, ma che succede là? Per carità di Dio, no, meglio niente. Ma scusa, è la logica la questione, no? Che ti fa così? No, gli ho messo, ho fatto il foglio di giornale sotto il caperpano. So che il pulisco lo scende, l'ha sporcato. Ma appunto lo sai che fa così, no? No, secondo la vernice non lo fa, lo sai, ho curato questo. Secondo la vernice non te lo fa. No, ma poi che pavimento su cose, guarda. A parte che tu dentro casa più vuoi salvaguardare il picchio, più ti pitica la cosa. Mamma mia, una volta mi cade la bomboletta per pappa, si buca, non mi feci la vernice ogni casino. Ma lo sai cosa faccio stesso la voce, la cosa di che si bombolette? E il presente che mi si era graffiato per non... mi si è graffiato il coso del, del cassettino, per non farlo con il corpo, con il compressore, ho comprato una bomboletta uguale, il numero uguale, lì da Palmieri, e mi sono messo alla ricerca e gli ho dato prima la mano, sono andato a dargli la seconda mano, mi scappa la bomboletta alla mano, io non lo so con questa bomboletta cosa va via, si era boom, non si era toccata. Sei aperta di fianco, ma dove sei? Non so se l'hai mai vista quella bomboletta, c'hanno la chiusura. Si è aperta tutto, sembrava un spago fatto apposta. Si è aperta di fianco, ma ti mi sono cominciato, ma pigliata, faccia in piedi, ma ho cominciato tutta la faccia. No, io per fortuna ce l'ho fatta dove stava sforzando. Gli ho messo la mano davanti e l'ho messa dentro la pattumiera, così non sta sforzando dentro la pattumiera. Meno male, se no io ho fatto un casino però in terra. Già, vedo il video, ma c'è Maria Comunista in faccia. Un'altra invece mi è caduta, si è rotto il tirillino, che non l'ho potuta utilizzare. E poi una volta, non è che mi ci l'ho fatto, volevo recuperare dei pallini, ho detto quelle cose, ne ho bucato uno e non ho fatto niente, ne ho bucato l'altro. Anche voi le buccavate per prendere quei piombini. Cosa c'è? Anche voi le buccavate, se trovate si vince va via, va via. E a esplodere, non le mai fatte esplodere. Sì, nel fuoco. E anche lui. Che... Pugna. Era un buco a fare manità. No, ma io avevo una mania prima di prendere tutti i pallini e recuperarli sempre. Quei pallini non sai che cosa si univa. A fare pizzico nel bar di Ralascia. Sì, la morte è la... Alcuni erano troppo piccoli, ma alcuni erano di quelli gruppi, e da 5 erano di quelli grandi. Di quelli gruppi che viene a me a mettere una forcella. Cavolo. Tiriamo a te sì cosa per dire che non fa prima. Mi penso a trovare recuperato, tu invece. E dopo che mi ha dato gusto era. Che allora queste cose facevano da segnare il buco e con gli altri. Abbiamo messo fuoco all'alveare, c'era dentro sottoterra, abbiamo messo fuoco vicino, c'era presente un treno quando cammina col fumo sopra, noi c'avevamo le api al posto del fumo sopra un gambo. E una volta di qui di Pasquale siamo andati a fare una scampagnata con gli amici, no? Eravamo avanti giù un buco, a uscire cosa con la porta, quando è scaldato, secondo me, quando è tornato. ieri ho comprato un bello stesso, se ci invece paghi su caro zero, si guardi a salare il risalto, quanto la combina fa anche quello, non poteva vedere quelle signore tutte impellicciate col cane, no? Signore impellicciate? Quelle che usavano la pendice di ermellino, il risolo e quell'ermellino tipo sciarpa così, no? Che camminava col cane tutto poco, a pomponcini e cose. Non rifate, vado a fare il calcio al cane, lo faceva correre il cane, l'ha tipo appresso. Ma che si va a pendice, come posso vedere la mattina, per fare il suo, eh? E che è un negozio, sempre con questo marmoncino, piccolino, sempre in braccio, un bocca, dove è la gara, è un cane di divertito, ragazzi. Se no il gioco di sotto poi è fatto con l'attacca attacca alla 100 lire nel pavimento. Cioè, come gli poteva dire, si guarda vattono, non è nascosto, che tu ci spugli, si guarda vattono, poi si inchinava, andava a prendere il caso per cercare di togliere, se non ci riusciva a prendere, andava. E l'ultima volta che ho fatto, non è stata una volta, quando ho vinto io, ho preso, ho attaccato, io ero al marciapiede, era passato a volare, ma io ho preso la bici, è andato a prendere, non attaccava, non si è perso l'arma, ma ha fregato. Yeah. di matematica, la studente che era giovane, le faceva mettere di culo, lui si metteva a ridere. Quando c'era sempre una minigonna, come le gambe a cavallate, c'era Tonio, questo mio compagno di scuola, diceva: professore, lo sai che c'ha belle gambe? E lui mi rideva e poi si incazzava: poi io non dire queste cose, ti mando al preside. E così io almeno giro con la sedia a rotelle. La dirigente mi ha registrato la professoressa, mi ha zicchirio. Della dirigente no, ma da che cosa è disegnata, noi ci avremmo un credo lì, dopo, una volta la fialetta che fa diventare, che fa freddo, un'altra volta abbiamo scoppiato quella che fa puzza, e lì, ragazzi, dove state andando? C'è puzza! La professoressa si dice, se trovi anche se ne esce anche lì. Se non è che conosci proprio la vita, non vedi quelle vite, ormai fanno tutte queste cose. forse però non te lo rinnovano. Cioè quando sì, qualcuno l'hanno rinnovato, ma non tutti. Ehi, ma è un'eccezione, già, sono pochissimi posti così, che viaggiano un po' male così, perché la maggior parte, guarda, tutti questi posti, e sento poi che la roba sta quanto in appalto adesso, vanno di 3 mesi, in 2 mesi, in 4 mesi, proprio perché, fino alla fine del contratto, perché poi non più in realtà si sa, se in realtà perché deve essere rinnovato il contratto, allora se non viene rinnovato, io non lo sono andato perché c'era 2 anni, l'ho mandato a casa, poi l'hanno richiamato, gli volevano fare un altro contratto di 2 anni, gli ho detto no, se li prendo il fisso rimango, se no non ci prendo nemmeno. Io non so, se non ho trovato un posto in un cantiere navale, ho pagato anche bene adesso, non per banco. Direi che già sempre per fatto il suo. Come fa male il coach, c'è anche se sarà. Sì, forse è stato così bucato. Forse la per fare tutta la gamba forte. Strano, ma non. Se non te lo tocchi. L'ho avuto fratturato il coach. Non sai come mi è successo. Ho fatto vedere la casa che stavo acquistando questa come in campagna. E mi ha detto, qui ho fatto l'officina per le attrici e cose, proprio questa stanza è proprio per me, così mi dedico a tutti i miei hobby, roba del genere. E non mi ero accorto che mancava una pignata, sotto c'era la cantina, ci sono tanto dentro, ho sbattuto malamente il sedere, lui si è lasciato alle risate, che stavo per svenire dal dolore, per... ho fatto salire di su, ero bianco bianco, la madre mi ha offerto un caffè. Meno male che non si è caduto giù il padre, se no c'erano le butti con il filo, me l'avresti sfasciata, cercando di, diciamo, di drammatizzare un po', però non ce la facevo manco a ridere dal dolore. Mi ha dato questo caffè, stavo per svenire dal dolore. Ho fatto la canica a Sassari viaggiando con la macchina, guidando di sbieco perché non riuscivo a sedermi. Abbiamo fatto la razza, c'è quel coach già fratturato. Cattà, ti ripercuote anche alla schiena se ti siete, te lo ricordi com'è? No, non gli addolori. Codetta, no, la codetta della spina dorsale. Sì, ma la maggior parte di tutti ci hanno fatto gli amici. Dolore così non l'avevo mai sentito. Un dolore, guarda, a morire. E l'ultimo pezzo delle cose è che la cartilagine. Perché attaccano anche nei tessuti, no? E infatti può manifestarsi una specie di ematoma, una specie di accesso, può anche uscire, si intacca molto. E questo lì deve essere operato. No, meno male di no, meno male a me mia guarda, se non si può fare nulla. Che io mi vantavo sempre di non essere mai stato all'ospedale. Tutta la famiglia c'era stata a casa mia, tranne io. Ma ho fatto 4 anni di fila sempre all'ospedale. Adesso non c'è la famiglia, è piccola, no? Tanta ragionetta, per carità. E di casa c'è stata Liliana, io, Marco, Manuele, ma grazie a Dio non c'è mai stata. Ma c'è Marco? E Marco è stato 15 giorni, è stato malissimo, male, male. Allora questa febbre che non li passava mai, alla fine l'ho caricato in macchina e l'ho portato in pediatria, volevo vederci chiaro. È stata un'infiammazione, abbiamo subito fatto un flebo, gli hanno dato antibiotico tramite flebo. Mi chiamano a casa, vado all'ospedale di urgenza, dove sta Marco Viola, Lilita Viola, cazzo, non riesco a questo, mi sono preso. E probabilmente, dice, noi stiamo provando gli antibiotici, probabilmente questo antibiotico non andava bene. Usate mio figlio per provare gli antibiotici. Lo facevo anche di notte, no, facevamo una notte per uno, ma aveva, ci fosse la madre di un bambino, gli dormiva lì lo stesso. Mi avevo chiesto, ma non c'è nessun problema, resti pure. solitamente fanno restare solo le madri. Ma Viviana lavorava, allora facevamo a turno, capito? Come era successo a Antonio allora? Antonio è di molto quando mi veniva questa febbre, cosa? E in pratica dovevo essere io stesso a curarlo, perché il medico che avevamo gli dicevamo che c'era la febbre, se poteva venire a fargli la visita e le ricette. Mi c'era portato nel qua e dicevo, ma come faccio a portarlo con la febbre del corpo? No, dove ti portavo qua? Io la portavo in laboratorio, là. Avevo portato gli invece di dare l'eliminazione delle cose, mi facevano un buio con la dieta, e va bene con la febbre. Io non ce la fare, un buio con la febbre, una o due volte. Stavo un giorno, si è sentito male con la febbre, fortissima, perché aveva il tonsile, lo sa, c'è un piccolo luce. Ma febbre, però se avevi il telefono, non la portava la luce. Facciamo da lui di fare il solito fuglio con la dieta, riso, riso, ritardo, la mangiare, ma la ricetta per la febbre, la tachipirina, una cosa, nuda, niente, un antibiotico, nuda, fatele questo qua, ma devo dire, buona dieta, un vicino per fare cosa, ma la prima deve dire buona dieta. Beh, la notte si è aggravato di più, lo portiamo all'ospedale, e dice, scusate, ma è il suo medico, avevamo raccontato, quello è un deficiente, quello non è arrestato, vuole. Il bambino è quasi con la febbre a 40, si era imbuto sotto ghiaccio già. E adesso Marco era col freno attaccato fisso, poi l'hanno cambiato antibiotico e sembra che sia rinato. È passata la febbre, deve essere trovato antibiotico giusto, tanto. Il dottore mi ha chiamato a parte e mi ha detto, mi scusi ma me l'ho vista brutta anch'io. L'ho vista brutta anch'io la faccenda. Anche tu mi ha lasciato 30 di pilare, ho comprato 30 di tutto, ho lasciato 7 di ma 30 con la febbre attaccata e la forza di antibiotici. Ho fatto passare la febbre e invece si è rossata e la parte soffocata. Io sono deciso, infatti, andrà via da voi. Ho lasciato mia moglie lì a sperare. Il giorno dopo sono andato lì a Linam, ho preso, ho cambiato subito la gradina là. E nonostante tutto di tanto senso, perché la città di casa che seguo lì in negozio, dice il dottor Senso, il migliore di Sassa, ma non tengo la gambata di due. Ma Marco è stato 15 giorni. 15 giorni, infatti dovevamo partire a Roma, non siamo potuti partire. 15 giorni, abbiamo dovuto rimandare la partenza, perché la dottoressa non ce l'ha data perché c'è che era del diritto. Fino a quando ha detto lo vedo un po' più grasso che non ve lo do. Thank you. volte mettendogli una coccanula. Però fate il braccio in viola, quando vedeva le dottoresse o le infermiere cominciava a gridare. Ciao, ciao. Ciao, ciao Belpo, ciao Giulio, ciao Pino, ciao, ciao.